La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Subito il numero per i vostri sms: 349-238-6666. Ore cruciali, Elisabetta, per la tenuta del governo. Si è appena concluso l'incontro tra il premier Enrico Letta e il vice premier Angelino Alfano, che sta per incontrare il leader del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi. C'è grossa crisi, c'è grossa crisi, Vincenzo. Eh sì, nel PDL / Forza Italia si prosegue sulle firme dei parlamentari dimissionari e tu hai sentito Dorina Bianchi, ascoltiamo. Dorina Bianchi, PDL, ha firmato la lettera di dimissioni? Sì. E perché? Ma perché prima di tutto è un atto di solidarietà a Presidente Berlusconi e anche formalmente un atto di protesta. La cosa che era secondo noi più giusta da fare da parte del PD non era tanto il giudizio su Berlusconi, perché Berlusconi è stato condannato e una volta che qualcuno ha una condanna giusta o non giusta, che uno possa sentirla in qualche modo, va rispettata. Noi chiediamo al PD che la decadenza e quindi la retroattività della legge Severino sia verificata dalla Corte Costituzionale. Quindi queste dimissioni, ha detto Brunetta, non sono però non comportano nessuna conseguenza ai fini dell'attività di governo. Ma come fanno a non comportarla? Ma queste dimissioni, ve l'ho detto, è un segnale di protesta. Quindi non sono vere dimissioni? No, sono delle dimissioni che noi abbiamo dato nelle mani di Brunetta e nel momento in cui per noi si verificasse la non agibilità politica del Parlamento, le dimissioni diventano realtà. Indubbiamente le nostre dimissioni significano poi che al posto nostro entrano altri e quindi che comunque si verifica un impasse parlamentare molto, molto difficile da gestire, secondo me. Insomma, Vincenzo, tu hai capito, sono vere o non sono vere queste dimissioni? Ma soprattutto dimissioni? Sono simboliche. Diciamo un gesto di protesta, questo è quanto dice Dorina Bianchi. Nel PD invece Letta ha incontrato i vertici del partito, tutti d'accordo per l'accelerazione verso le primarie l'8 dicembre. Una direzione lampo, durata un'ora, le elezioni si avvicinano, mi sa, perché nel PD non litigano più. Possono partecipare al voto per segretario Assemblea Nazionale gli iscritti del PD e quelli che si riconoscono nella sua proposta politica. C'era anche Matteo Renzi e tu, Vincenzo, hai sentito Ermete Realacci Renziano. È stata confermata la data, che poi era stata l'unica cosa poi votata nell'Assemblea Nazionale, quindi ci saranno le primarie per eleggere il segretario l'8 di dicembre. Il percorso, non essendo cambiato lo statuto, è un po' quello che era fissato dalle regole dello statuto e anche dalla consuetudine della vita democratica del partito, quindi è un percorso, diciamo, che nel giro di 2 mesi permetterà al Partito Democratico di avere un nuovo segretario. E questo voto è un voto aperto a tutti, ovviamente chi va a votare dichiara di essere un elettore del Partito Democratico e quindi sono primarie aperte. Nelle occasioni precedenti avevamo fatto votare anche 16enni. Qualora ci fosse una crisi, potrebbe o deve passare per il Parlamento, secondo lei? A questo sicuramente. Se ci sarà una crisi, bisogna che ognuno si assuma le sue responsabilità. Io penso che quello che è accaduto è una cosa molto pesante, molto grave. Avevamo un Presidente del Consiglio che era negli Stati Uniti a parlare con investitori internazionali, col mondo economico, per difendere il nostro Paese, per procurare risorse, per cercare di aiutare l'Italia ad affrontare la crisi, anche dimostrando la forza del nostro Paese, perché il nostro è un Paese forte, abbiamo imprese, quando l'Italia fa l'Italia è un Paese imbattibile, mentre lui è lì, no? La totalità dei partiti, dei deputati del secondo partito più importante della maggioranza, un pilastro fondamentale per il governo, annunciano le dimissioni, annunciano atti inconsulti, parlano di golpe. Insomma, io penso che sia stato un atto di slealtà senza pari, quindi c'è bisogno di un chiarimento, c'è bisogno che si dica se si vuole agire nell'interesse del Paese o se ci sono interessi personali particolari da difendere. Qui leggiamo qualche sms. Pensavo, ecco, che fosse chiaro il ragionamento rispetto alle dimissioni dei parlamentari del PDL. Massimo da Firenze però ci scrive: possibile che nessuno dica agli ascoltatori che il PDL non può dimettersi in massa, ma Elisabetta, l'abbiamo detto, sono dimissioni simboliche, in quanto le dimissioni vere e proprie da parlamentare è un iter molto lungo che deve essere votato dalla commissione e poi dall'aula, certo. Quindi evidentemente sono queste, Elisabetta, delle dimissioni simboliche. Qualche altro sms: siamo stanchi di questi pagliacci, il paese è ormai morto e loro giocano. Saluti da Marco. Elisabetta. Poi gli industriali non prendono le distanze dai cialtroni, chiede Angelo. Sì, c'è una nota, poi ne parlerà sicuramente Sebastiano Barisoni in Focus Economia, proprio sugli industriali contro la crisi. E comunque, per fortuna che hanno firmato Così Cambiano, un po' di queste persone incapaci, dice Marco, un po' la tesi dei 5 Stelle, bluff, eccetera. I nostri radioascoltatori grillini vengono fuori. Sì, è così. E intanto Grillo attacca il capo dello Stato, che ricordiamo sta per ricevere il Premier. Ha perso la partita, ma si ostina a negarlo, dice Grillo di Napolitano. Sentiamo cosa ne pensa della crisi il vice capogruppo 5 Stelle alla Camera, Federico D'Incà. Ma noi crediamo che questa sia una buffonata, in altri termini non si potrebbe dire, una buffonata nei confronti degli italiani che subiscono una crisi economica gravissima dovuta agli ultimi 20 anni di governo alternato PD-PDL, e quindi credo che gli italiani meritino assolutamente un nuovo governo. Un governo 5 Stelle? Ma questo è chiaramente il nostro obiettivo, un governo 5 Stelle che può essere dato tramite il mandato di Giorgio Napolitano fin da subito, o altrimenti, cosa che chiediamo ancora di più, di poter tornare nuovamente alle urne e di poter dare veramente in mano agli italiani la possibilità di dare un governo stabile, un governo 5 Stelle a questo nostro bellissimo paese. Sì, ma voi eravate contrari al Porcellum, ora dite, anche Beppe Grillo dice, va bene, basta che si vada al voto, va bene, anche il Porcellum. Noi abbiamo dimostrato in aula di voler assolutamente cambiare questa legge elettorale. L'abbiamo dimostrato votando la mozione Giacchetti, cosa invece che non è stata votata da parte del PD e del PDL. Ecco, noi abbiamo proposte concrete nei confronti della legge elettorale, siamo assolutamente contrari al Super Porcellum, che potrebbe essere punitivo nei confronti del Movimento 5 Stelle, e desideriamo veramente dare a questo Paese una legge elettorale che possa anche essere inserita in Costituzione per rendere più difficile le modifiche da parte della maggioranza del singolo governo di modificare a piacimento la legge stessa. Ma a questo punto, se Napolitano vi dovesse convocare, voi sareste pronti ad un governo istituzionale con dei rappresentanti scelti dalla società civile e con in questa stessa legislatura? Noi siamo pronti fin d'ora a dare in mano a Napolitano, se ci dà questa possibilità qua, dei nomi che diano veramente una forma di cambiamento importante a questo Paese. Che Napolitano ci dia la possibilità di poter presentare nomi, o che ci dia la possibilità ancora più importante di tornare già al voto. E questo era Federico D'Incà. Subito in chiusura noi vi salutiamo da Montecitorio, un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.